buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo. 451 frammenti sonori è rientrato in diretta come ogni domenica notte. In realtà domenica scorsa eravamo assenti anche giustificati, data il ponte del 2 giugno. Abbiamo preferito lasciare lo spazio alla programmazione di Radio Città del Capo. A parte gli scherzi, non c'eravamo. Comunque oggi rientriamo, puntata di 451 frammenti sonori che sarà condotta dal sottoscritto. Dunque un saluto a Max Macchia, che stasera è assente ma appunto è sempre presente nella progettualità musicale e sonora di 451 frammenti sonori. Un saluto dunque da Elisio Scarpa. E questa nottata particolare, dato che è un'estate questa che ancora non vuole sbocciare, in realtà siamo ancora in primavera, però la pioggia assale ancora la città di Bologna. Una stagione molto strana questa del 2012, da gennaio fino ad oggi diciamo che il tempo è stato abbastanza strano. Oltretutto è andato ad insediarsi anche il terremoto che sta colpendo l'Emilia Romagna, ma anche ormai quasi tutta l'Italia, da quello che sembra ci sia stato in quest'ultima settimana. E in questo senso il territorio, l'ambiente e lo spazio proprio su cui noi ci muoviamo è abbastanza in movimento. Chissà, potrebbe anche essere un segnale di qualcosa che sta cambiando. E su questo, in maniera un po' paradossale, costruiamo e utilizziamo questa tematica come ponte per aprire il programma di stasera, programma radiofonico che si baserà sul tema No Ambient, che abbiamo già affrontato circa un mese e mezzo fa nella prima puntata, e stasera continueremo questo percorso intitolandolo appunto No Ambient 2, rumore, flusso, spazio, memoria. Su questo ci muoveremo dunque, attraversando dimensioni sonore che molte volte vengono affiancate alla musica ambient, ma che con l'ambient hanno poco a che fare, altre invece strutture sonore che invece sono molto vicine all'ambient ma hanno delle dimensioni più rumoriste o in alcuni casi più legate alla dimensione del flusso, e altre proposte musicali che si muovono su un'idea quasi particolare di memoria, una memoria sia personale che collettiva rispetto a sonorità, mondi e dimensioni anche visive del passato. Tutto questo appunto verrà affrontato in No Ambient 2, rumore, flusso, spazio, memoria, e apriamo questo percorso sonoro di stasera con un artista non particolarmente conosciuto ma sicuramente molto prolifico in questi ultimi 10 anni, Aidan Becker, musicista canadese che si è mosso nella sua esperienza musicale all'interno delle dimensioni legate in parte all'ambient e al minimalismo e in parte alla dimensione legate alle sonorità legate al jazz più dilatato, più aperto, che ricorda in alcuni casi anche le sonorità, le strutture musicali dei Next, gruppo australiano che spesso abbiamo inserito all'interno delle puntate di 451 frammenti sonori. Aidan Becker, chitarrista che ha collaborato con vari musicisti canadesi all'interno di questa scena, ma che in particolare in un disco, Still Life, uscito proprio l'anno scorso, elabora un percorso musicale estremamente ipnotico, con una dimensione dilatata, quasi appunto un jazz minimalista, con degli influssi sicuramente legati alle dimensioni ambientali, ma con una coloritura e con un approccio musicale molto lontano dall'ambiente, appunto perfetto anche per aprire la tematica di stasera di No Ambient 2. E dunque apriamo con Still Life, Aidan Becker, 2011 l'album, e dunque apriamo 451 frammenti sonori oggi domenica, ancora domenica perché tra poco sarà anche lunedì, domenica esattamente 10 giugno 2012. Buon ascolto. Thank you.

Thank you. E siamo rientrati in diretta con questo splendido lavoro che abbiamo mixato con Aidan Baker da Still Life 2011, l'uscita dell'album. Abbiamo mixato uno splendido lavoro uscito nel 2010, The North Band, di Rafael Anton Isarri, che è molto più conosciuto con il nome di The Side Below, progetto musicale techno ambient molto più conosciuto nell'ambito degli anni zero, splendido progetto parallelo di quest'artista poliedrico che con il suo nome, dunque in termini completamente personali, ha voluto portare avanti un progetto parallelo più legato a dimensioni di flusso, a suoni estremamente più ipnotici, meno legati alla battuta e dunque alla dimensione ritmica che più propria di The Side Below, mentre appunto con questo progetto omonimo ha portato avanti ben 4 album, in particolare questo forse è il migliore, quello più riuscito almeno dal mio punto di vista personale, uscito per la Room 40 nel 2010, The North Band, consigliatissimo da parte di 451 frammenti sonori. E continuando il nostro viaggio all'interno del rumore flusso, in questo caso ci spostiamo verso un discorso più legato alla memoria, dunque più dentro il discorso spazio memoria, andiamo a pescare un progetto, una formazione piuttosto particolare, molto poliedrica, anche intrigante nel suo modo, nella sua concezione della memoria, della musica legata appunto alla memoria, un progetto che abbiamo già passato all'interno di 451 frammenti sonori, Belbury Poli, inserita poi oltretutto sempre in un contesto legato alla memoria, una vecchia trasmissione, non vecchissima, ma di qualche tempo fa, che appunto aveva lavorato sull'idea di memoria in un'ottica differente ma comunque vicina a quella che affrontiamo stasera in No Ambient 2. E Belbury Poli, che poi in realtà il personaggio che ha creato questo progetto è Gene Japp, lavora appunto su questo recupero a livello di suoni e a livello di motivi rispetto alla memoria del passato, soprattutto quella legata ai musicisti che attraversano questo progetto, in particolar modo gli anni 70, gli anni 60-70, legate a delle sonorità, dei suoni connessi anche a sigle di trasmissioni televisive, trasmissioni radiofoniche, anche di una certa memoria legata alle colonne sonore di film, di documentari, e dunque tutto questo universo anche piuttosto giocoso, piuttosto che può sembrare a primo ascolto anche abbastanza ridicolo, giocoso nel termine più anche deleterio della parola, in realtà invece la genialità è proprio andare a ripescare, riportandolo poi sulla dimensione attuale, proprio momentanea, questo discorso legato alla memoria del passato, all'infanzia, ai ricordi quasi ancestrali di certi suoni, di certi motivi che poi ritornano e vengono rimasticati, rimodulati da questa progettualità musicale. Dunque ci addentriamo dentro lo spazio memoria e attraversandolo attraverso, bello questo gioco di parole, Belbury Poli da The Old Map, disco uscito nel 2006. Successivamente hanno fatto uscire questo gruppo From an Ancient Star del 2009 e l'ultimissimo The Belbury Tales, ma per adesso vi lasceremo ancora con la sorpresa dell'ultimo album splendido che sicuramente inseriremo nelle prossime trasmissioni, ma intanto godiamoci The Old Map 2006 da Ghost Box etichetta, e dunque Belbury Poli. Con questo aggancio, con questo suono che ricorda sicuramente certe sonorità, certi motivi degli anni 70, abbiamo riaperto in voce 451 frammenti sonori dopo aver ascoltato questo splendido tuffo nel passato attraverso questo geniale progetto Belbuli Poli. Chiaro che la mia generazione, come quelle che ha passato in parte da bambino gli anni 70 e qualcuno anche la fine degli anni 70, inizio anni 80, può sicuramente ricordare certe sonorità e certi motivi musicali che accompagnavano molti programmi in televisione o in radio, comunque reminiscenze che fanno appunto andare con un tuffo nel passato e dentro appunto il discorso spazio-memoria. E Belbuli Poli, da questo splendido disco The Old Map, lancia, diciamo, apre la strada al prossimo personaggio, che è un artista multimediale, anche lui piuttosto giovane, comunque un'età che attraversa la conduzione di me, di Max, di 451 frammenti sonori, Roland Vega, personaggio eclettico, musicista multimediale, artista multimediale, che è stanziato di base a Chicago e è sempre molto interessato alle dimensioni della memoria, del recupero di certe sonorità, di certe strumentazioni, di certe composizioni, figlie degli anni 70 e in parte anche dei primi anni 80, affascinato dunque sia dalle dimensioni sonore delle musiche, delle colonne sonore televisive, radio radiofoniche o colonne sonore di film, di cortometraggi, di documentari degli anni 70 e dell'inizio degli anni 80, ma anche affascinato dal pop, della techno pop degli anni 80, dei primi anni 80, della fine degli anni 70, che ha attraversato, diciamo, il suo immaginario musicale e multimediale. E in questo ha cercato di riproporre questo suo bagaglio musicale, questa sua esperienza, questi suoi influssi legati appunto a queste dimensioni della memoria all'interno di un album che ha fatto uscire nel 2007, che raccoglie le composizioni musicali da lui realizzate per ben 8 cortometraggi che lui stesso appunto ha realizzato come regista, e appunto ha assemblato questi lavori musicali che si muovono all'interno di una dimensione sonora legata al flusso, in alcuni casi legata anche a delle composizioni che possono sembrare quasi bambinesche, infantili per certi suoni e certe dimensioni, quasi da sigla di cartone animato, mixandoli anche con altre sonorità invece connesse di più a una dimensione techno ambient e legata a un ritorno, diciamo, a una memoria della techno pop degli anni 80, riproposte però in un'ottica prettamente sonora e musicale, senza parti legate a vocalizzi o cantati. Dunque un intero album musicale, sonoro, un vero e proprio flusso, dove appunto lui stesso va a ricercare le sue radici, le radici anche della sua formazione musicale e delle influenze che hanno avuto queste sonorità, queste esperienze legate al suo passato da bambino e da ragazzo, per appunto riproporle all'interno di un percorso attuale attraverso appunto una sorta di visione sonora delle sue realizzazioni in Super 8 di questi cortometraggi, questi documentari, che sarebbe anche molto interessante riuscire a trovare per poter anche vedere l'abbinamento tra musiche e dimensione visiva. A questo punto ce ne andiamo ad ascoltare, abbiamo selezionato un paio di brani che dovrebbero poi accompagnarci alla fine della trasmissione di 451 frammenti sonori, chiaramente la prima parte, poi rientreremo chiaramente dopo il GR di Radio Popolare Network intorno alla mezzanotte 45, mezzanotte 50, per la seconda parte di No Ambient 2, rumore, flusso, spazio, memoria. Intanto chiudiamo con Roland Vega da Documentary del 2007. Buon ascolto.